Attenzione, Brecco per un controllo radio. Stiamo uscendo il sindaco di Ploie. Ciao Claudio, come sto uscendo? Una bomba. Sto usando il Galaxy Saturn Echo di Antonello. Fosse uscito lui così, come stai uscendo tu. Bella modulazione, segnalone, radio super 5. L'ho sistemata su, ho trovato uno spazio e l'ho collegata direttamente al cavo dell'antenna principale, capito? Senza nessun raccordo. Dovrebbe uscire, non so con quanti watt, adesso la controllo. Stai uscendo molto bene, bellissima modulazione, bella veramente, caspita. Lui non esce così, con te esce veramente molto bene. Dipenderà anche dall'antenna, No, io sto parlando di voce, di modulazione. Bella, pulita, bella modulazione. Sì, lui mi ha dato anche il microfono, che è un Sadelta CM40 Special, ed era al massimo, io l'ho regolato un po' intorno all'8, capito? Guarda caro, lascia così, perché in questo momento è la più bella radio che posso aver ascoltato in 27, veramente, molto bella. Ok, meglio così, sarà contento Antonello quando glielo dico. E soprattutto quando ti sente, anche ti sto ascoltando col Saturn, col Galaxy Saturn Turbo però, stai andando veramente molto bene, benissimo. Ho capito, il tuo è una versione di questo più recente, diciamo, di questo, o sbaglio Claudio? Non lo so che se sono usciti prima, questo è Colonia, questo è un Galaxy Saturn Turbo e basta. Aspetta un attimo, ho sentito forse Tino chiamare. Tino, sei tu? Sì, ti ascolto, bassino ma ti ascolto. E sono già al massimo della potenza, questa più di 100 watt non dà. Però riesco a ascoltarti, forse ti ascolta meglio Carlo, senti a Tino, tu sì. Sì Tino, ti sento più però comprensibile, capito? Vieni avanti, fai un passaggio più lungo. A Castelsardo, non abbiamo zona favorevole per Castelsardo, però qua arrivi Tino, arrivi. Ehi Attino, ci sentiamo dopo quando rientri, dai. Avanti Carlo. Ciao Tino, ti sentiamo abbastanza comprensibile comunque, radio bassa però si capisce tutto. Buona serata se sei lì, o buona pescata se sei da quelle parti. Alle prossime. No, in giro col camper. Sì, arrivi veramente molto bene, ma praticamente che operazione avete fatto? Avete fatto un cambio? No, me l'ha solo prestato così per una decina di giorni, per poterlo provare. Lui era curioso a vedere come usciva attaccato alla mia antenna, capito? Ma non è solo questione di antenna, perché l'antenna va sul segnale, qua stiamo parlando di radio, sta uscendo benissimo, proprio bella modulazione, corposa, bella forte, amplificata, bella. No, lui esce molto meno di te, peggio di te. La tua è veramente una bella modulazione. Ok, il tuo segnale mi dà 9 più 30 qua sul primo display dove c'è scritto segnale, capito? Io dovrei uscire, penso adesso, con questo quanti watt ha, o 100 o 20. No, sei normale già. Se tirata al massimo c'ha 15 watt massimo, se poi è normale c'ha 10 watt in AM in FM e 20 in SSB. Allora è 10, la scala del 10 sta uscendo con 10 watt in AM, poi lo proverò magari anche in banda laterale a vedere come va, dovrebbe uscire con qualche watt in più là. Sì, penso quasi una ventina, 18, 20, perlomeno il mio era così prima, adesso fa 100 watt in AM, 100 watt in FM, 100 watt in SSB. Ho capito, diciamo l'uscita audio di questo è frontale, bella grande, può potente rispetto all'altra radio che usavo, è un'altra musica, capito? No, c'è una condizione favolosa, io non lo usavo mai perché sono abituato ai K e quindi uso quelli, però adesso in questi giorni sto usando questa qui e mi sto accorgendo che veramente è una radio eccezionale, c'è una ricezione favolosa, veramente non ha niente da invidiare alle radio che ho, veramente. Poi adesso con la potenza che ha, insomma, si difende anche bene. Ho capito, belle radio queste, non le, mi sa che non le fanno più, vero? Perché si trova, sì, ma roba usata, non sai mai come procedere, capito, se fidarti. No, beh, non le fanno più, però ti ripeto, questa è nuova, tenuta veramente molto bene. Ho tolto le maniglie perché non è che mi piacciono molto, sembra un HF di quelli enormi. Infatti è un fianco l'FT 920 e sembra anche questo un HF. Però, ti ripeto, sono belle radio, vanno veramente molto molto bene. Non capisco perché a volte le vendono. No, io avevo una mezza intenzione, ma non perché non la uso, perché non la stavo usando, però l'ho messa adesso sopra il DAC, all'urangolino, ti dico che mi fa piacere usarla, eh. Lo credo, sì, sono ottime radio queste. Lui mi ha dato questo microfono anche, mi ha detto prova il tuo, però il mio ha un attacco a 6 poli e non va bene, perché io ho l'MB+4, però l'ho adattato alla radio che ho io, solo che nella mia radio esce come microfono normale, capito, già lo sa. Qua dovrei togliere l'attacco e mettercene uno a 4, ma già va bene questo che mi ha dato lui, sta andando benissimo. No, Saletta ce l'ho anch'io, Saletta Master Plus, sono microfoni che funzionano molto bene, anche qua su questa radio funziona magnificamente bene, però io preferisco usare il Tannen+3, cioè il Tannen+3B, anche l'MB+5, +4, c'ho il Saletta Master Plus, c'ho la Fire 508. Sono tutti i microfoni che ho, ma no, non uso, ho preferito mettere questo qua. Ho capito. Niente, io già lo sai che te l'ho detto ieri, ho fatto la notte, stamattina poi mi sono svegliato intorno alle 11, poi sono andato a Giave dove c'è mia suocera che era il compleanno, gli abbiamo portato una torta e niente, siamo rientrati che era, diciamo, già ora di pranzo inoltrata, quindi giusto adesso ho avuto un attimo di tempo, ho detto mi metto a provare questa radio, capito? No, per me la puoi usare tranquillamente, è veramente una signora radio, ma soprattutto tu la porti in una maniera pazzesca, veramente, molto meglio di Antonello, è veramente molto bella la modulazione. Eh sì, niente, io non è che ho toccato molte cose qua, capito, regolazioni ce ne sono, ma ho lasciato più o meno tutto com'era, ho abbassato un po' la preamplificazione del microfono perché secondo me era troppo alta e così dovrebbe andare bene. Alla grande, ma il Mickey Gay ce l'hai al massimo? No, non è al massimo, là. Sotto, dove il Mickey Gay della radio non è al massimo? No, non è al massimo. A che livello ce l'hai? Aspetta che mi cerco gli occhiali. È a 8, adesso lo porto a 9, guarda un po' come va così. Mettilo al massimo, lascialo, io ce l'ho al massimo. Adesso è al massimo. Lasciala stare al massimo, va benissimo. L'RF Power sotto il frequenzimetro com'è al massimo? Aspetta, l'RF Power adesso l'ho messo al massimo, era tipo 8-9, adesso l'ho messo al massimo. Lascialo così, è aumentato ancora il segnale, lascialo così, RF Power al massimo, Mickey Gear al massimo, basta, poi altre regolazioni non ce n'è da fare, come questo. Ah, eh sì, è abbastanza. abbastanza anche semplice. Ha sì un bel po' di manopoline, calibrate, toner, F-gaming e gain, poi c'ha la banda squelch AF gain, poi c'ha la regolazione del fine per la banda laterale, poi in alto, dove mi hai detto tu, sotto il frequenzimetro c'è RF power, il coso delle le bande FM, AM, USB, LSB e CW. Sì, quello è il modo. Mode. Mande c'è sotto il mode. No, va bene. Usala tranquillamente perché va veramente, veramente ad hoc. Sì, adesso l'ho messa sul mobile, capito, però mi sa che ci va una mensola gli devo fare questa radio, perché lo spazio ce lo avrei, capito, però devo organizzare una mensolina. Ti ho capito, non so se te la devi comprare, cosa devi fare, però se te la va prendila, perché è una bella radio quella, capito, va molto bene. E adesso la provo, ma mi pare che lui non ne ha intenzione di vendersela, capito? Perché è giusto me l'ha data così, per provarla, prima me ne aveva dato un'altra, eccetera. E ho detto però questa è molto meglio dell'altra. Ehi, ma certo. Questa è, ti ripeto, una bella radio, Carlo. Se devi prendertela, prendila tranquilla, perché io ne ho avuto due o tre, mi pare. Le avevo sempre date, questa poi me la sono tenuta. Credo di tenerla, insomma. Ho capito, sì, bella radio, poi anche come pannello, diciamo, la strumentazione chiara, capito, e che la sto provando per la prima volta, quindi sto un po' osservando tutto, capito, però già va bene, anche Tino riuscivo a sentirlo come te, molto basso, però si capiva abbastanza bene, capito, magari Castelsardo non è un po' coperta, però arrivava bene, sicuramente col camper avrà avuto qualche watt in più per arrivare sin qua, però è importante averlo sentito. Sì, nel camper c'è, mi pare, un linearetto, comunque già va bene. Ho capito, ma se io dovessi prendere qualcosa così di grande, che già esce con 10 o 20 watt eccetera, il linearetto che ho qua, anche io penso lo metterò in macchina, perché forse è meglio in macchina che in casa. Beh, sicuramente in casa siamo tutti vicino, non succede assolutamente niente, già ci sentiamo. In macchina magari è la possibilità, quando ti sposti, di arrivare meglio, capito? Che c'ho? Mille. Il tuo Galaxy, ma guarda quanto lo porta bene il carro, va. Una favola sta uscendo, una favola. Me ne sono accorto, c'è la modulazione meglio della mia, cazzo. È come se fosse parlato un carro scolavino con l'altro Galaxy, cazzo. Scusa Linda, aspetta per la presenza di Roberto stasera, perché me l'ha chiesto l'altro giorno, ho detto guarda che ho prestato il Saturneco. Dice, beh, ha detto come penso che dovrebbe uscire meglio di me. Ti vuole sentire stasera, ma lei quando stasera entra ti sente. Meglio di Messica, io faccio schifo proprio di andare, faccio piazzare, anche con l'MB4, è nuovo o no? No, io sto usando quello che mi hai dato tu, il Sadelta, capito, già va bene così. Sono gli unici microfoni che, vabbè, a parte l'MB4, che è nuovo nuovo, quello di Sadelta non è che sia nuovo nuovo, c'ha l'età del tempo, c'ha. Ne avevo comprato uno seconda mano, l'avevo comprato da, se non mi ricordo male, l'avevo comprato da Mario, quello che è morto, l'avevo lasciato così, infatti dovevo cambiargli lo smitterino, quel quadrante dove segna lo smitter, là, e non sono riuscito a trovarlo, l'ha fusato. L'unica cosa è dirlo alla Salerta, se riesco a trovarlo me lo sistemo, me lo metto a posto, perché è un peccato lasciarlo con quello smitterino che non funziona, cioè il modulometro in pratica. sai già pompa quel microfono, a voi. Comunque anche la ricezione ha un bell'audio, questa radio è perfetta perché ce l'hai poi frontale, è bello ampio, capito? L'uscita, la griglia che c'è è perfetta, capito? Ti sento molto molto meglio di prima. C'è anche il tono, cioè se ti sei accorto, c'è la moto del tono. Se tocchi quella vai toni alti, passi toni bassi della colonnina esterna. Io già ho visto, adesso me lo tengo un pochettino così mi attento e poi già te lo tratto bene, già te lo restituisco Antone. E già lo so come tratti bene, perché bisogna dire bene, se no non te l'ha ben pensato, no? Figurati. Vediamo più tardi se entra Roberto, perché a lui già con la mia radio, che rispetto a questa è una radiolina, gli arrivavo forte, capito? Con questa vediamo un po' come va. Mi sa che ti dice che è molto meglio in questa nell'altra. Quindi figurati. Avanti qua. No, non c'è un abisso. Carlo, c'è un abisso, anche con l'altra esci bene, per carità, con la modulazione, questa è molto più forte, molto più bella, cioè delle tonalità splendide. Antone, no, non c'è paragone da come lo usi tu, è chiaro, come abbiamo sempre detto, si tratta di timbrica vocale, lui c'ha una bella timbrica, ha dei bei acuti, insomma, spinge molto molto bene. Spinge molto molto bene, la sto portando veramente alla grande. Il Saletta poi ha un microfono di quelli che vanno molto bene, si adattano a tutte le radio, ma secondo che timbrica il vocale esce male. Tu lo stai portando veramente bene, molto molto bene, complimenti, va bene, fatelo vendere l'Antonello. Adesso vediamo. Se mi fa la proposta indecente che si ritrova a Gianni. 50 euro mi voleva la mia, ma detto l'altro giorno aiutava, si è esaurito, io ho detto cazzo, su ci voglio rifilare i numeri, a me voleva 50 euro. Oh, matematica. No, sto vendendo 150 euro la parì qui, già lo sa Claudio. Sto vendendo anche poco, perché se vai su Corno, su internet, meno di 200-300 euro non ce n'è. Ah, ma stava scherzando, già. Già lo sa quanto costa il gas. No, non te lo danno meno di 250 euro questa radio. Questa che ho io adesso che è 100 watt, non esce più da qua, capito? Ma anche vendendola io non la vendevo meno di 200 euro. Ho un amico, se no se la devo dare fuori 250. Stanno vendendo così, è il prezzo suo. Però per 250 euro si può trovare un bel 140 o per 50 euro in più, capito? Però ripeto e ribadisco che non è una radio che dispiace, fa il suo lavoro, è sempre un baracchino, però è un baracchino molto completo, a me è sempre piaciuto e l'avevo ripreso, messo da parte, adesso lo usiamo. Avanti Carlo. E adesso che lo sto vedendo e anche provando mi rendo conto che è un signor baracchino comunque, capito? Perché diciamo è completo a tutto e cos'altro ci vuoi mettere per una radio della 27 MHz, capito? Questo è perfetto, bello, capito? Bello diciamo anche esteticamente, no? Come si presenta il pannello è perfetto. No, poi già l'ho fatta prendere io quella di Antone, quindi già è una bella radio. Antone, come l'ho messa qua è una bomba. Poco fa abbiamo sentito Tino che era a Castelsardo, si sentiva un po' basso di radio, di segnale, però già un'ottima ricezione pure questa radio. Lo so, guarda, c'ho un problema di ricezione più che altro io. Adesso appena ci sarà delle belle giornate, una settimana, dato che mi hanno regalato la gaffa della parabola che dove era piazzata la dove è stata la, come si chiama, il palo che sto in pratica. Ho già chiesto a Giuseppe di darmi una mano e compro il palo nuovo d'acqua da 3 metri e io lo metto nuovo in saldato dove c'è la trappa della parabola, così stacco l'antenna piano piano, perché la manto va in casina staccata da sotto. C'è il bullone, c'è il dado, poi c'è un bullone al centro, quindi ce lo spruzzerà un bel po' di CRC, almeno 2-3 giorni, lasciare lo svitto lì che faccia effetto. Dopodiché, una volta cambiato il palo, vedrà che cambia tutto, anche perché la terra c'è un sacco d'anni, la mia, che avrà 5-6 anni, installata sopra, non l'ho mai toccato. Poi c'è la DC58, quello che mi ha fatto bruciare il BV2001, a transisto, e quindi lo cambio, ci metto la DC213 che mi ha dato Fabio Massa, che ne ho, mi sembra sono 60 metri, me l'ha regalato di quel cavolo. Cambio tutto, metto tutto come si deve a posto e torno come una volta. Già se lo ricordo a Claudio, da lineare e apparecchio ero veramente forte. Poi in due facevo il muro di Berlino con Claudio, figurati tu. Non entrava manco quelli di una veloce, non ci vuole entrare. La strada. Io lo credo bene, lo credo. Comunque questa è ottima, c'è anche l'attacco per le cuffie, vedo un pannello frontale, insomma. Signora Radio, questa, sì, no, questa è bella veramente, da cui usandola è facile, intuitiva, insomma, è, c'ha tutto, cos'altro dire? Ma c'è una radio da favola, veramente, da favola, sembri qua seduto a fianco a me. Poi tu parli piano, non gridi, quindi è bella, squillante, perfetta. Segnalò che tu sei 9:30. Veramente bella, bella, bella, bella. E faccio un pensierino, quella è nuova la radio, è tenuta bene, e va benissimo. Ok. Mi dispiace Antonè, quella bottiglia che è andata così, già te ne do un'altra di roba non buona ma ottima. Sì, cazzo, mica me la devo bere 2 giorni, no, me la devo fare appena qualche volta, magari se c'è mal di stomaco o qualcosa del genere, perché c'è l'abitudine di mangiare veloce, capito? Quando ho finito di fare qualche lavoro, quindi mangio veloce, poiché le devo in pratica tenere a Simona, devo stare appresso, eccetera, eccetera, e quindi sto mangiando come il coniglio. A volte, siccome devo stare con lei perché non c'è i piedi, faccio dalla cucina, poi mi siedono una sedia, o mi tengono a me che mi guardano la televisione, quindi lo so, ma sto andando a farti benedire, lo uso più che altro per quello, se bevo una cosa del genere faccio la piedi mio fratello, non saranno. Oh Carlo, ma nel tuo lì, in quello lì, c'è scritto Galaxy Saturn Echo. No, c'è solo Galaxy Saturn, la voce Echo non c'è. Allora, come questo, pensavo che mancasse qua. Perché questo è Colonia, questo quando tiro sul pulsante non ce n'è Echo. La scheda l'ho fatta togliere, io non serve a niente. Non serve a niente, è proprio una grandissima stronzata, bruttissima. E quell'interruttore è stato usato per mettere la scheda dell'amplificatore. Ho capito, adesso ti mando una foto così lo vedi come l'ho piazzato. Di Saturn Echo, quello che c'ho io è totalmente differente. Sì, manda. Orecchiabile almeno. L'unica cosa che c'è di bello con l'apparecchio lì è che c'ho l'alimentatore da 30 ampere dentro, quindi ci posso infilare tranquillamente un bel lineare. Anche questo c'è l'alimentatore da 30 ampere, è per quello che c'è il lineare all'interno, capito? qui, se rimetterai le canzoni su, c'è il buonanotte. Se ne va là subito, se ne va là. No, quello che c'ho io è senza ampere. Si può agganciare tranquillamente un lineare, volendo, all'interno. Basta fare il lavoro bene e si può agganciare il lineare. Prova ad agganciare l'elettrico, solleva la levetta. Allora, vediamo un po' qual è la levetta dell'Ecco. Eccola qua, adesso l'ho alzata, Però va a parlare, dove ci è uscita? Abemus papam, nuntiu vobis gaudium magnum. È qua. Perfetto, e non dà nessun fastidio. Mia Natalino. Guarda che più bella senza Ecco, bassa, bassa, che esci molto meglio. Vabbè, ecco qua. Ciao Cla. Ciao Natalino. Hola. Ciao Carlo. Non ho voce. Cazzo non c'è. Carlo, portami una bottiglia di whisky. Non ne ho, non ne bevo io di whisky. Ho Mirto oppure qualche grappa locale, quella della zona di Tempio, ho capito, io di whisky eccetera non mi piace. Qualche grappino già me lo bevo, però acqua vite, dai. Cazzo, la taglio senza voce, sembra che si muore quando prende, cosa vuole, che se rimane senza voce per tre giorni, pare uguale. Però stavo anche riconoscendo, c'è la taglio ben ascoltato, no, non so dove posso neanche dire perché c'è la voce talmente bassa. Puglia, avanti, tra. Sicuramente Natalino, come si è abbassata la temperatura, avrà preso freddo, perché sembra così, due giorni di pioggia quasi continua l'hanno fatta scendere, soprattutto la sera, la mattina. Ieri ha fatto un sacco di acqua, ieri notte, tutta la notte che pioveva, io ero Alghero, ho fatto la notte, no, ogni tanto mettevo il muso fuori e stava piovigginando, però sempre facendo. Io sono andato a piantare la penna fuori, ha messo questa giovanna, quella da 4 metri e quella da 2, quelle di bricco, ma non so prendere a piazzare quelle in un'abitazione. Come l'altro ho visto, sono talmente leggere che se dovesse arrivare un colpo di vento si copia, se no che ce la trovi. Nella palazzina di fronte ce la trovi, anche se costano 200 euro non è come la tenda, quella grossa che c'aveva la volta, che gli aveva dato Andrea, quello del bar, che era marca Tainer, che quella sì che era pesante, come tenda, ma queste sono leggere, sembrano lenzuola, sembrano, ma dite quella l'ho aperta, io guarda, questa è pericolosa la tenda, mentre cerca di una prima tutta l'appia per appena e basta. Quando c'è solo, quando c'è il freddo, o vento, lascia la chiusa sopra e te la porta via, lo sta aperto per le tracce. Lo so, i tubi vogliono belli robusti, io ne avevo trovato uno giù, capito, buttato e abbandonato, l'ho tutto ripulito, eccetera, li avevo fatti fuori con la filettatura, saldati i due dadi, capito, e l'ho messo come base, quello che è fondamentale, perché era da quello che avevo non era molto grosso e avendo messo un'antenna abbastanza alta, meglio avere anche la base della solida da 3 mm e mezzo è lo spessore, capito? Ecco, allora io ho recuperato un tubo di tenda che mi ha dato Giovanna, di quelli che rimanevano solo metallizzati. Vabbè, adesso si è diventato scuro, però ce l'ho in garage buttato. Se ti serve me lo fai sapere, devi fare qualche lavoretto lì, te lo do. E poi c'ho anche una parabola, che avevo installato qua 6 mesi prima di togliere questa che hanno messo nuova. L'ho recuperata, e così, la bulloneria è tutta nuova, non c'è niente, manca solamente il liberatore, se sei appassionato magari di distrae, qualcosa del genere, o ce l'ho qua a casa, me lo dici e te la do, tanto non ne faccio nulla io. Ho capito, aspetta che mi ha mandato Gianni Doppio Rum un messaggio su WhatsApp, stavo leggendo. dice di prenderglielo. No, lui l'altro giorno mi ha chiesto, ma ti hai preso la radio Galaxy Saturn di cosa, di Antonello? Ho detto no, me l'ha solo prestata, capito, e per provarla. Ho detto non l'ho presa. Ho detto giusto perché ero curioso io di vedere questa radio come andava, dai, però già è bella. E gli stavo spiegando quello, dai, adesso gli mando la foto. Se mi sbaglio la foto, perché l'avevo mandata io, del mio. Capito? Allora vabbè, ce l'ha già, anche perché mi avevo mandato, mi sembra dopo i finali dovevano tipo poi da cambiare, anche che doveva cambiare un sacco di roba, mamma mia, il lineare è quello che ci ha avuto, gli ha fatto un sacco di danno, deve essere che ha fatto di tornare di aria frequenza, chissà come, buh, che è un bel strano, che è un lineare la macchina faccia tutto questo danno qua. Secondo me ha avuto qualche problema di elettrostatica, qualcosa del genere, e non se ne è accorto, cattabuccia di modulatore, l'altro modulatore che c'è in fronte uno all'altro, e tutti i tuoi finali per i gommi, meno male non ha bruciato l'alimentatore. Adesso ho capito perché Natalino è senza voce, capito? A chi se poi sa cantare, capito? E quando canti così poi ti va via la voce, Natalino. E allora, adesso non posso più cantare. Ah, caro, che è andato. visto, Natalino. Capita, ti avrei voluto vedere cantare. Qualche giorno io ci vengo anch'io. Io non canto perché se canto io guai, piove dentro allo studio. Io c'avevo Carlo, volevo dire l'antura. La bandata che suona. Fa karaoke in un circolo, fa. Quella. La mattina faceva, rimaneva con mio fratello, la sera alle 8 e mezzo, alle 9 andava via a fare il karaoke, si guadagnava 650 euro di mezzo. Ma Antonio? No, Antonio, la bandata che c'avevo io si chiama Angela, si chiama. Ah, ho capito, no, perché Antonio l'altra volta mi stava parlando di sistema audio, poi stavamo parlando di alcune cose, di casse, eccetera, e mi ha detto che anche lui ogni tanto già si appenta a mettere musica, capito, tipo karaoke, eccetera, capito, pensavo ti stessi riferendo a lui prima. No, la mia banda. Poi mi ha detto lui che Antonio può farla a casa sua. Se io metto qua, accendo lo stereo, immediatamente mi bussa nel muro, la trovo il karaoke qua. Quando fa, sì, io gli rispondo salute, lui mi risponde da dietro, grazie. E figurati i muri che ci abbiamo qui. Non puoi venire anche a fare il ciucucciù la notte perché ti sente. Antonio guarda il telefono. Già lo guardo adesso, ho sentito il ciclino, mi ha mandato il video che fa, no? Bello bene, adesso me lo guardo, così mi scappa la vita. E così ti rendi conto, Antonetto, che senza voce Natalino. Sì, adesso lo guardo, così almeno. Non se ne manco tu Natali, sembra da povertano. E se poi il gabba un figlio, sì. Oh, yeah. Mi è capata pure una risa. Ah, se metti immediatamente su Instagram, mettitelo Natali. O su TikTok, vedrai come ti fai il fondo, guarda. E ti danno soldi in più. Ui, ui. Speriamo se è vero che ci diano 220 Natali questo mese. Così prendiamo, la troveranno a tutti, speriamo che vengano anche a noi, a 221. Disoccupati, anche a Carlo dovrebbero dare i 200 euro in più. Ho sentito anche io questa roba di 200 euro che danno per i lavoratori autonomi, privati, insomma, un po' tutti. Però è tipo una cosa, una tantum, no? Giusto perché ci sono stati un sacco di rincari, no? Ma 200 euro, vai a fare la spesa e praticamente un carrello pieno di roba sono 200 euro. cosa c'è di luci verdi in quella galaxia? Era così, mi hanno messo luci verdi, gli hanno messo, non ho capito perché. L'ho preso così la tariffa, ma è claro, non ho mai cambiato quelle luci, la verità. C'è luci verdi, c'è infatti. Era cambiato quello che è installato dentro l'alimentatore grande, eccetera, eccetera. Non è fatto qui a Sassari quell'apparecchio. È stato modificato fuori. E l'ho visto, è fatto dentro, è fatto tutto con le fascette, non con lo scotch. Non c'è neanche un filo di scotch, tutto con fascette e carri. Guarda, ci sono più di 15 cavetti, solo è fatto dall'alimentatore, dalla 12 volt, uno per ogni cosa, per il pensimetro, per il eccetera eccetera. È fatto veramente bene l'evento. I gambari sono fatti bene, il mio è nuovo, no, però il mio è un altro modello, c'è cioè le manopole cromate, il mio le manopole sono tutte nere, il frequenzimetro è giallino, col cambio col canale che è giallino lo stesso originale, le luci sono bianche normali, diciamo, però le manopole sono diverse. Il mio è tutto nero, anche le manopole sono nere, quelle sono cromate, non so che modello è, se è dopo di questo, prima di questo, non so. Vabbè. Riprendi Carlo, mi allontano un attimino dalla radio, arrivo subito. Tacco, siamo tutti così a casa facendo qualcosina, io come ho piazzato la radio ho dovuto spostare qualche cosa, in questo momento sto togliendo la polvere che c'era sotto, e quindi da fare ne abbiamo sempre. Quindi Antonio, hai visto la tua radio come esce bene anche con la mia antenna? Più che altro esce di audio, il doppio del mio, capito? Esce veramente il doppio del mio. Se tu dovessi usare il 140 con l'MC60, Claudio te lo mangi, a colazione te lo mangi. Sì, perché comunque l'impianto d'antenna è fondamentale, no? Sì, la radio conta, però molte persone insomma hanno delle radio ottime, però l'antenna, capito, fa la sua, cavo e antenna, capito? Io succedo con la DC58, mi è anche vecchio questo DC58. Anzi no, aspetta, adesso aspetta, non succedo con la mantova, ti sto dicendo con la canna da pesca, esatto. La antenna, ecco, è piazzata nel coso, aspetta che faccio un passaggio, è piazzata nel come squasso via, 2 secondi, dopo questo mi dice la differenza che c'è. Cantarino, ma oggi mi intende il cantante. Guarda un po' com'è la modulazione, questo è la mandova, Carlo. È completamente diversa dall'altra, capito, Antone? Questo è il Condes 4000, sarebbe in pratica il circuito di quello che c'è dentro nel Saturn-Echo, è preciso identico, perché c'ha la scheda uguale, c'ha l'Echo dentro uguale, che è preciso identica, meno che frequenzimetro. Se qua gli avevo messo il frequenzimetro sarebbe diventato quasi uguale, sarebbe diventato con la mascherina dorata il samurai famoso, quello già era bello. C'erano tutti i pulsantini, eccetera, eccetera, bello veramente. La differenza di segnale c'è comunque, sì. Adesso dalla mantova alla canna da pesca. Arrivi più forte con questa, Si conferma. Trappa. Non stavo controllando che cavo ci avevo messo, perché avevo voluto fare alcune prove l'altro giorno. Quindi, comunque c'è bene. Il QFM è molto di meno della canna da pesca, naturalmente, così come è piazzata adesso nell'avanzare del terrazzino. Se la metto sopra al tetto, che gli ho già detto a Giovanna che gliela installo sopra al tetto, appena compro il cavo nuovo, 60 metri di RG, 213, 58, ce ne voglio almeno da partire da qua e scendere giù. Io entro tutto dentro casa sua e anche faccio partire direttamente dalla casa mia per non passare in mezzo al cavi TV degli altri. Alla Roche. però io mi sto temendo quando inizieranno i lavori qua, che mi devo riorganizzare lo stesso con la discesa del cavo dell'antenna, perché lo dovrò scollegare, farmi mettere una sorta di corrugato, insomma, per poi filarlo dentro, se no è un casino poi. Ma ti fai mettere una canaletta? Claudio aveva fatto così nel palazzo dove abitava lui, qui da Milano. Cioè, hanno fatto mettere la canaletta, direttamente il cavo della canaletta saliva direttamente sopra. La canaletta è anche larga, quindi ci puoi scendere 3-4 cavi, quello che ti pare ci puoi scendere. Ti fai mettere la canaletta, poi una volta che la canaletta è bloccata a muro, e poi loro ci mettono l'intonaco sopra, non succede nulla. Il cavo li puoi togliere quando vuoi. Claudio non ha avuto nessun problema per togliere il cavo, mica sono morti lì via Milano, no? Tutti i soldi aveva speso con quel cavo grosso, ma lui c'aveva il cavo grosso però, no, con l'RG 213 oppure il 58. Lui c'aveva, adesso mi costa il Ceflex o cos'era, quello è totalmente diverso da questi. Ma no, io, Carlo, con la Toscana ho messo una canaletta a tappo da 80, c'erano 8 cavi dentro, 8 cavi grossi, quando sono andato via ho riportato la Toscana e ho tolto i cavi, li ho tirati su, li ho staccati da dentro casa, messi fuori dalla finestra e tirati tutti su, li ho tutti recuperati, ce li ho qua i cavi, non ho comprato cavi qua, non stai scherzando, ho cavi da 5 euro al metro, assolutamente, li ho tutti recuperati. Con la Toscana ho fatto togliere la canaletta, ma la sono portata via, può sempre servire, capito? Infatti mi serve per passare i cavi qua dietro, il cavi che lo metto sotto la canaletta per l'umidità, quindi è un bel lavoro, che aspetta, io tutti i cavi erano nuovi, perché non prendevano sole, non prendevano acqua, non prendevano niente. Lo credo. E dove l'hai ripresa questa canaletta, Cla? Non è il con la presa niente, ho preso 3 barre da 6 metri, che poi praticamente per portarle via le ho dovute tagliare tutte da 3 metri, le ho fatte tagliare tutte a misura da 3 metri, tutte aggiunte nella giuntura, silicone bianco del colore della canaletta, non si vedeva niente, poi dopo ci andava al tappo, capito? Ci vanno i tappi. Bellissimo lavoro, grande lavoro, non bellissimo, grandissimo lavoro. Ma a me me l'aveva consigliato l'amministratore di condominio. Ma come cazzo faccio a far scendere i cavi qua in facciata? Perché fino a quando era nono piano andava bene, all'ultimo entravo direttamente dal terrazzo alla finestra. Ma poi quando sono sceso al secondo i cavi rimanevano in mano, capito? Erano brutti e poi potevano dar fastidio a qualcuno. Allora ho detto, ma scusa, lì per sé li metto una canale a fianco al pluviale, così si può fare. Sì, io lo stesso, tipo 6 metri da dove esce la mia antenna, diciamo il mio cavo d'antenna, salire su sul piano del tetto sono 6 metri perché ci sono altri due appartamenti, capito? Dall'altra parte c'è anche la mansarda, ma da questa parte non c'è la mansarda, e comunque non è nella facciata principale, ma è nella facciata all'interno del cortile, in un angolino, diciamo, che non dà fastidio a nessuno, anche se il cavo dovesse scendere esternamente, capito? Perché è nascosto e non dà fastidio a nessuno, ma nessuno mi ha detto niente, capito? Aspetta, ok, vi lascio un attimo che vado a fare la spesa. Già dentro fra 10 minuti, se no Simona mi strozza. A fra poco, là, e poi salire e scendere. Non c'è problema, Antone, già siamo qua in chiacchiera, in Ceramedo. Natalia, ancora ci sei? Claudio? Ehi, Carlo, mi ha chiamato mia moglie, capito? Puoi fare un bellissimo lavoro e i capi sono sani, eh? Ho capito, sì, ma tanto i lavori inizieranno a settembre, quindi già ne ho di tempo per organizzarmi, capito? Ma non dovrei avere molti problemi comunque, perché ti ripeto, non è in facciata principale, ma è all'interno del cortile, proprio in un angolo quasi cieco e non si vede. A fianco ci passa anche la canna fumaria dell'impianto di riscaldamento, per cui è anche nascosto il cavo, capito? No, bene, il mio non è facciata a strada, è facciata interna. Facciata interna lato parcheggi, capite? Quindi era all'interno, però è stato fatto un bel lavoro. E hanno durato tantissimi anni, io sono stato un sacco di anni. Al secondo piano 8 anni. 8 anni sono stato al secondo piano. Quindi andava bene, perché prima andavo piano, quando dall'87 loro tornavo piano e sono sceso al secondo, capito? Però ti ripeto, era un bellissimo lavoro, l'ho fatto con un carissimo amico, mi ha fatto la mano. La Toscana avevo usato quella che stavano facendo i lavori all'interno. Avevo chiesto a questo impresario che stava pagando, mi serve fare questo lavoro, penso un'oretta, facciamo tutto. Ma detto, guarda, lo possiamo fare dopo che però smontiamo dal lavoro, si trattiene l'operatore, un'oretta mettiti d'accordo con lui, non c'è nessun problema, perché poi l'autoscala la parcheggiavano proprio attaccata al mio parcheggio, siccome vedevo che erano sempre in difficoltà, io mettevo la macchina fuori e avevo lasciato anche il mio parcheggio. Perché lasciavamo dentro l'autoscala. E quindi mi ha detto, lo facciamo dopo le 4:30. Era il periodo buono, insomma, il periodo che non c'era molto caldo, siamo insieme a maggio-giugno. Abbiamo fatto. Quindi d'accordo con l'operatore, si trattiene un'oretta in più e te lo fai fare, per me non c'è nessun problema, organizzati, tieniti tutto pronto. Infatti avevo la prolunga dalla mia finestra per il tesseratore, invece poi non ce n'è neanche, non l'abbiamo accorgiata perché ci aveva il tesseratore a batteria e era un mostro quel tesseratore, veramente fortissimo. Appoggiavamo la canna, la bucava e tiravamo su, appoggiava la canna, la bucava e tiravamo su, capito? Abbiamo fatto scendere tutti i cavi e abbiamo messo il dato. Ma un'oretta ci abbiamo messo, una cosa del genere. Non voleva addirittura niente, ma stavate scherzando, ma assolutamente, l'autoscala mica era mia, vabbè, ma cazzo che si è trattenuto un'ora in più, ho preso le volate, ho regalato 50 euro. Fatto bene, ti hanno fatto tutto quel lavoro lì e insomma, se devi pagare l'autoscala sono un sacco di dinari. No, io quel problema non lo avrò perché qua già metteranno l'impalcatura, capito? E quando saranno pannellando tutta il muro di facciata, no? Che facciamo il cappotto termico al palazzo, praticamente se riesco me lo faccio passare sotto quelle lastre che mettono loro, in maniera tale che neanche si vede la canaletta, capito? E così posso infilare e sfilare tranquillamente, la metto bella larga, se non si vede in facciata è meglio. No, mettere larga, perché se poi devi montare qualche altra antenna, viene male, deve avere giù col cavo. E anch'io volevo metterla piccola, e invece questo amico che tra l'altro è anche elettricista mi ha detto no, mettila larga, almeno a 60. E infatti l'avevo presa quadrata la 60. Ci stavano tutti i cavi, quando li ho sfilati i cavi non manco si toccavano uno con l'altro, li ho sfilati a uno a uno e salivano proprio perfetti, con i piedi attaccati, non è che con i piedi attaccati, capito? Quindi era un bellissimo lavoro, qua non ne ho problemi perché sono a terra, quindi però li canalizzo, sono sotto corrugato, attraverso un giardino sono dentro il corrugato, poi metto una canale a muro sotto a 10 cm dal piano appunto del giardino, riporto dito, lo faccio meglio, comunque ho fatto bene, no? Perché sono a mezzo ai piedi graffi, anche perché graffi non ne ho, ho 3 antenne, quindi niente, 2 anni al volto di antenne. Perciò qui ci sono tutti i cavi di alimentazione del rotore, del control box, del coso lì, del commutatore elettronico, perciò va bene. Dai, riprendi un attimo che mi devo spostare. Ehi, senza nessun problema, Cla. Tanto anch'io sto facendo qualche cosa, al limite rimango in ascolto e Antonello è uscito e ci sentiamo più tardi, già sono in ascolto. Ok, grazie della chiacchierata per adesso, a più tardi. Ti lascio per lei a più tardi che è arrivata gente. Come, Cla, che mi ero spostato? Ti lascio momentaneamente che è arrivata gente, ci sentiamo dopo. Eia, no problem, ciao, a dopo. Ciao. Di tante cose, di libro, della mia vita, che uno mi chiede... No. Russi e ucraini, o quello che siano bielorussi, stanno facendo un casino, dei segnali che non ti immagini, dicendo cretinate, come mettersi male in testa. E li lasciare fare i cretinate, ci dicono beh, quindi non è più nemmeno cosa fa, non fa niente, gli va bene lo stesso. E allora, com'è, a posto? Tutto a posto e ovviamente niente in ordine come sempre. No, ti volevo fare una comunicazione di servizio, Claudio. Tieniti carico il portatile perché sto dando per fare dei test un apparecchio a Marco, capito? Perché le è stato assegnato il nominativo anche a lui, capito? Per operare di là. Io sento tutto, non ti preoccupare, anche se non ci sono, ci sono sempre. Ho sentito tutto quello che state facendo. Io ce li ho sempre in carica, ma non è un problema per me, già lo sai, io quelli già li uso, entro in DMR. Quando bisogna entrare, quando no sto in silenzio, come sto facendo. Sono argomenti che non mi interessano, quindi sto in silenzio. Spesso e volentieri. Sì, scusa, ma mi hanno interrotto. Ho capito un tubo. Cosa ti stavo dicendo? Quindi tieni in carica, così magari facciamo qualche prova di lì per vedere cosa succede. Io ti ho risposto, so tutto, vi ho sentito, so tutto, io sono sempre in ascolto, non entro perché ci sono argomenti che non mi interessano, quindi non mi va di partecipare, l'ho già detto una volta e lo ripeto, se sono cose che posso stare in qualsiasi va bene, ma sono cose che a me non interessano, io non, non ci sta ancora che sia qui, che sia lì, che sia qua. Non è quello il problema, però ti ho sentito che hanno fatto richiesta di nome antifo, tutto qua. E ti ho detto anche che il mio è sempre carico, anche i miei DMR sono sempre pronti all'uso, capito? Quindi non c'è problema per me. Se è fattibile, se non è fattibile, anche io rimango in silenzio. Ah no, speriamo che sia fattibile. Tanto la chiacchierata, io non c'ho, come si dice, sono di poca buona, o che la faccio qua, o che la faccio su, o che la faccio a destra, a sinistra, l'importante è passare il tempo. Adesso, dato che tra l'altro siamo anche un po', come dire, un po' sgonfi, perché prima abbiamo tagliato l'erba, poi l'erba è ricresciuta, quindi adesso aspettiamo tempi migliori e quindi ci dedichiamo un pochettino alla radio. Altro non possiamo fare. No, beh, io non lascio crescere molto, adesso aspetto, se la prossima settimana, come ha detto, il tempo è bello, però non l'ho passato esternamente. Tratto sicuramente me lo raso domani. Domani o lunedì, ma fuori da una trapassata, se non poi troppo alta, capito? Sì, sì, ma ti ho capito io, però la stessa cosa faccio qua, io sono sempre in ascolto. Se è fattibile chiacchierare va bene, ma se non è fattibile, come spesso capita, che ci sono solo schiaccio qui, schiaccio là, prova qui e prova là, allora rimango in quelli che la stessa cosa faccio lì. Quando voi parlate di SP8, come cazzo si chiama, satelliti e balle varie, a me non interessa, quindi rimango, preferisco rimanere in silenzio, tutto qua. Sai, a differenza di qua, quelli sono gli argomenti, non è che ti puoi allargare più di tanto. Qua, sotto certi aspetti, è come dire, la trattoria, il bar in cui puoi parlare di tutto quello che ti pare piace, di lì c'è meno roba, tecnica, poi tutto l'altro lo sai. Quindi se non piace entra, se non piace rimane in ascolto, quello è scontato, anche io tante volte sono in ascolto, qualche volta mi piace, qualche volta no, quindi si fa quel che si può, come tutti. Sì, ma per carità, però io scelgo la radio e trovo così. Fare anche un po' di divertimento, se no diventa monotona la cosa, poi capito. Va bene, vanno le ciance, tutto a posto. Non stavo cambiando la lampadina, lo smitter di una radio che non mi piaceva, era troppo debole, ne ho messo un pochino più forte, ma adesso va molto meglio. Così è. Basta metterla a LED, così consuma anche di meno. No, ho detto le balle. Sono originali, ce li ho. Facilissimo, anche da sostituire. E sono originali. L'unica LED fa troppa luce e poi brucia il vetrino. Capito, se mette le tenta scaldano adesso. Sono piccoline, sono sue, vanno dentro la sua sede, c'è la sede in gomma, messa dentro, e ciccia, va bene, nulla, io mi testo la mia figlia che è uscita a lavoro, la parrucchiera, domani è un compleanno, a fare la spesa, è andata a ordinare pizze, quindi sto aspettando che rientri per darle una mano a scaricare la macchina. Infatti, però tra una pausa e l'altra, non smaligliare, cavolo, perché sennò mi fa venire un sonno, come i vecchi di quelli là, no? Che c'è, parlavo, ta ta ta ta, e quelli, mi stavo, anche ho iniziato a smaligliare. Che ti volevo dire? Non lo ricordo più. E come sta la cosa di Filippo? Gli sta bene, quando le palle sa che abbiamo fatto la cosa, prestazione, come si chiama, produrre un anno, perché non va a mettere i calori, ogni tanto vuole uscire fuori, piange, perché si sente l'abbaiare dei cani che ci sono al canile, io ho un centinaio di metri di canile, si sente, capito? E quindi come sente i cani, vuole uscire fuori, per sempre entra esci, adesso è sdraiato nella sua brandina, vediamo un po', ci ribassa un mattino. Ma non gli avevo detto che a quell'età